Gianni fa le pizze e torte al super bar, Lilli canta il night del ragno blu. Gianni dice a Lilli, bimba vuoi tentar? E Lilli gli risponde, non ti lascio più. Opla di, omata, è la vita, la vita è tutta qua. Opla di, omata, è la vita, la vita è tutta qua. Gianni compra rate una pietra blu, con l'anello in tasca esce dal bar. Lui ritorna a casa alle 8:03, nessuno più felice a questo mondo c'è. Questo